Before we continue the scene at reception, let's look at the first part of the sentence. Ho bisogno di una penna per scrivere il numero. I need a pen. I need is part of a very useful and easy construction. Avere bisogno di. To need. Very simply, it's the verb. Avere. Plus. Bisogno di. Here are a few more examples of this construction. La signora ha bisogno del suo cellulare. The lady needs your mobile phone. Abbiamo bisogno di una cartina di Firenze. We need a map of Florence. Sara ha bisogno di un bancomat. Sarah needs a cash point.